Se uno va avanti ragionando solo con il Vangelo, fa una cosa buona, certo, ma se non va avanti con il cuore puro e prende il Vangelo come sostegno del suo punto di vista, piglia delle cantonate. Perché non è servo del Vangelo, ma si serve del Vangelo. E guardate che ce n'è di persone così nelle nostre comunità, eh? Quelli che la sanno lunga, quelli che hanno il cuore duro, non hanno il cuore misericordioso e si basano sulla parola di Dio. Mamma mia, che paura incontrare questa gente, non conoscono la misericordia. Faccio questa premessa per dire che nel Vangelo si può trovare una cosa e il suo contrario. Perché la realtà è complessa. La realtà è sfaccettata come le facce di un diamante. Ogni aspetto è il diamante, ma nessuno pretende di esaurire tutto quanto alla visuale. C'è una frase del Vangelo che dice: chi non raccoglie con me disperde. No? Ora uno, se guarda questo, dice: dobbiamo essere dello stesso gruppo, dobbiamo avere la stessa identità, dobbiamo avere lo stesso timbro, dobbiamo avere. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono del Don, io sono del Consiglio Pastorale. Io sono del tal movimento, io sono dell'altro, io sono di Ratzinger, io sono di Francesco, io sono. Dovremmo essere di Dio. Chi non raccoglie con noi disperde, dice Gesù. E oggi ti dice quasi il contrario. Ma lì i suoi discepoli gli dicono: maestro, quello là, scomunicalo, eh. Addirittura si mette a fare esorcismi nel tuo nome e noi, oh, noi gliel'abbiamo impedito, eh? Dici che siamo bravi. Perché non ti segue insieme a noi. Ma Gesù rispose: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Capite? Capite? Dipende da con che cuore tu leggi il Vangelo, guai amici. Non serviamoci della Bibbia, serviamo la Bibbia. Non citiamo la Bibbia per sostenere le nostre posizioni, guai. Mettiamoci ascoltatori della Bibbia e ci accorgeremo che la Bibbia è grande, ha un cuore grande. È il cuore di Dio, mentre noi abbiamo un cuore piccolino, è il nostro cuore. Oh, vieni Spirito Santo, non per nulla nella Trinità siete in tre. Non ti scandalizzare, Spirito Santo, immagino che discuterete anche voi, però alla fine siete nell'unità. Insegna alle nostre famiglie, ai nostri papà, alle nostre mamme, insegna alla nostra società, insegna a coloro che ci governano, insegna alle nostre parrocchie, ai nostri preti, ai nostri movimenti ecclesiali. Insegnaci il dono dell'unità, tu Spirito Santo, che sei l'unità nella pluriformità, e così sia.